valgono le spese militari nel mondo, le più alte da 10 anni a questa parte. Ma chi si arma e perché? Benvenuti a una nuova puntata. Nessun luogo è lontano di Giampaolo Musumeci. Worldwide defense spending rose almost continuously, with one plateau to nearly $2 trillion a year. Only 5 of 29 countries were making their commitment, and that's now changed. So we made a tremendous amount of progress. Welcome back to our place of work. Buona giornata, ben ritrovati gentili ascoltatrici e gentili ascoltatori, un buon lunedì da parte mia ma da parte di tutta la squadra di Nessun Luogo Lontano: Antonio Tali, Ilaria Sesana, Valentina Ternullo, Andrea Macchioni. Quest'oggi in assistenza a Danilo Di Trani e in console ritroviamo Peter Bescapè. 349-238-6666, forse pleonastico ricordarvelo, lo sapete, è il numero per poter alimentare il dibattito qui a Nessun Luogo Lontano. Lo potete fare con degli sms o con i whatsapp, anche se ormai vediamo che preferite decisamente il social. E poi, a proposito di social, la pagina Facebook Nessun Luogo Lontano trattino Radio 24, se amate invece twittare Nessun Luogo 24, ovvero Giampaz. Nel 2019 sono stati spesi 1.917 miliardi di dollari. Questa è le conclusioni a cui sono giunti i ricercatori dello Stockholm International Peace Research Institute, l'acronimo è SIPRI, uno dei più autorevoli osservatori per tutto ciò che riguarda il mondo degli armamenti e della corsa agli armamenti. Ma come mai si è registrato un picco a partire dal 2008 addirittura? Chi si sta armando di più e perché? La domanda diventa ancora più scottante, più intrigante, interessante se volete, in un momento in cui gli sforzi mondiali sono rivolti a contenere la pandemia. 349-238-6666, su questo punto vorrei sentire i vostri commenti e i vostri suggerimenti, però è lunedì. Peter, la prima cosa da fare è sfogliare i nostri dossier internazionali. Il primo ci porta negli Stati Uniti, dove la posizione del presidente statunitense Donald Trump è pericolosamente vicina a un livello alto di gaffe. Lo sapete, ve ne abbiamo dato conto la settimana scorsa quando nella abituale e quotidiana conferenza stampa in cui si doveva fare il punto sulla diffusione della pandemia, sulle misure prese dall'amministrazione federale per contrastare il Covid-19, Donald Trump aveva suggerito che i medici potevano esplorare la possibilità di iniettare disinfettante nei polmoni, aveva anche suggerito che fonti di luce particolarmente forte e potente, raggi UV o altro, aveva detto, potevano essere un buon rimedio per il Covid-19. Oltre alle facce sbigottite dei giornalisti e degli scienziati presenti in quella occasione alla conferenza stampa, c'è stata poi una vera e propria levata di scudi da parte del mondo scientifico. L'intervento di Donald Trump è stato bollato come altamente pericoloso. Ne sia prova il fatto che il giorno dopo lo stesso Trump ha cercato di ritrattare dicendo che stava scherzando, aveva fatto una battuta. E poi è successo che molti centralini dei centri antiveleno negli Stati Uniti sono stati subissati di chiamate di persone che chiedevano se era vero, se era possibile poter ingerire o iniettarsi in qualche modo sostanze disinfettanti per combattere il Covid-19. Un altro tassello che vi aggiungo è che anche nei social media e non solo, le aziende produttrici di disinfettanti hanno dovuto chiarire con dovizia di particolari che i disinfettanti non vanno ingeriti, non vanno assolutamente iniettati in nessun modo, non bisogna in sostanza neanche pensarci. Allora, a quel punto sono intervenuti i più stretti consiglieri di Donald Trump, che sostanzialmente gli hanno consigliato caldamente di evitare di essere presente ulteriormente alle conferenze stampa. Immediatamente è arrivata la risposta di Donald Trump via Twitter, come spesso accade, un tweet recentissimo che recita testualmente: a questo punto non valgono la pena il tempo e lo sforzo per partecipare ai briefing. Ditemi qual è lo scopo di avere delle conferenze stampa quando i patetici media fanno solo domande ostili e si rifiutano di riportare accuratamente la verità dei fatti. Come potete ben capire, non c'è soltanto in gioco la salute degli americani con dichiarazioni così improvvide, c'è in gioco anche la credibilità di un presidente che, lo ricordiamo, a novembre dovrà sottoporsi al giudizio degli elettori e dovrà vedersela con Joe Biden. arrivano già i primi messaggi al 349-238-6666, fra pochissimo naturalmente ve ne darò conto. Fatemi però andare in Corea del Nord, dove c'è un altro dossier scottante con quelle voci che si sono rincorse per giorni e giorni, settimane addirittura, sullo stato di salute di Kim Jong-un, che non appare in pubblico da parecchi giorni, operato per una operazione che, secondo alcune illazioni, secondo alcuni rumors, come si dice tecnicamente, avrebbe avuto un esito non buono per il presidente. Si era vociferato che fosse in coma, che potesse essere morto. Insomma, a smentire tutti questi rumors ci ha pensato Seoul, quindi la Corea del Sud. L'origine di quelle voci è sempre stata controversa. Comunque, da Seoul arriva la risposta a tutto ciò: Kim Jong-un è vivo, sta bene, ed è stato dichiarato, l'ha detto alla affari esteri del presidente sudcoreano Moon Jae-in alla CNN Moe Chung-in. Il nostro governo ha abbastanza capacità di raccolta di informazioni per affermare, l'ha detto il funzionario del governo, per affermare che non sta avvenendo nulla di insolito. E questa dichiarazione era arrivata alcune ore prima dal ministro sudcoreano della riunificazione Kim Yeon-chul. E poi andiamo nel Regno Unito, dove, fra l'altro, stavo buttando l'occhio proprio alla BBC, vi scorrevano le immagini del ritorno al lavoro di Boris Johnson. Boris Johnson che è tornato nella residenza Number 10 in Downing Street e quindi riprende ufficialmente la guida del governo. La sua prima apparizione pubblica è stata suggellata da una dichiarazione, ha detto Johnson: oggi si inizia a invertire la tendenza nei contagi, pur riconoscendo quanto duro e stressante sia stato l'aver rinunciato anche temporaneamente alle antiche e basilari libertà. Ha ammonito che un rilassamento prematuro delle restrizioni potrebbe causare un secondo picco disastroso, sia sul piano umano che economico. Poi Johnson, ovviamente, come da prassi, da grammatica governativa, ha ringraziato il suo supplente Dominic Raab e tutti i membri del governo che lo hanno sostituito. A proposito di armamenti e di guerra, le notizie che arrivano dallo Yemen non sono per nulla confortanti, perché i separatisti yemeniti, sostenuti dagli Emirati Arabi Uniti, hanno dichiarato proprio ieri, domenica, l'autogoverno nello Yemen del Sud, accusando il governo di non aver adempiuto ai suoi doveri di cospirare contro la causa meridionale. In questo modo lo Yemen sembra ripiombare a decenni fa, quando vi era appunto un Yemen autonomo proprio nel sud. Quello che è opportuno e importante andare a sottolineare è che viene rotto l'accordo di pace siglato a novembre a Riyadh con il governo riconosciuto sul piano internazionale. Ovviamente la risposta da parte della coalizione militare guidata da sauditi non si è fatta attendere. Via tweet, attraverso i suoi funzionari, hanno respinto immediatamente la dichiarazione di indipendenza e hanno chiesto la fine di qualsiasi azione di escalation e ribadito la necessità di ripristinare le condizioni al loro stato precedente nella capitale provvisoria Aden. Poi andiamo in Siria, perché l'Osservatorio Nazionale per i Diritti Umani in Siria, ve lo ricordo che è di base a Londra, ma tramite la sua rete sul terreno è l'unica fonte, per quanto discutibile in alcuni casi, perché totalmente unilaterale, che ci porta notizie dalla Siria stessa. Sarebbe stato compiuto un raid dalle forze aeree israeliane contro una delle basi iraniane che si trovano tra Kiswa e Senaia, siamo alla periferia di Damasco. Secondo Damasco stesso sarebbero stati uccisi 3 civili siriani, e questo ovviamente ha fatto irritare e non poco il governo di Damasco. La stessa ONG afferma che nel raid sono rimasti uccisi 4 miliziani non siriani, forse erano Pasdaran iraniani o Hezbollah libanesi. Intanto, non meglio precisati uomini armati hanno aperto il fuoco oggi contro i militari turchi nella Siria nord-occidentale, dopo che nelle ultime ore attivisti e fonti mediche siriane hanno riferito dell'uccisione da parte dei soldati di Ankara di 2 manifestanti nella regione di Idlib. A questo punto si tratta di un nuovo, ai noi, continuando a raccontare quel quadrante, molto spesso utilizziamo l'aggettivo inedito, anche questa volta questa reazione da parte della società civile, in questo caso anche armata evidentemente siriana, contro i soldati di Ankara sarebbe un episodio senza precedenti. È evidente che la presenza turca non è particolarmente gradita, e vedremo naturalmente come evolverà. Vi ricordo che dovrebbero essere operative quelli che sono i pattugliamenti congiunti di russi e turchi dopo quella tregua che era stata siglata appunto tra Mosca e Ankara. Certo che a questo punto la situazione sul terreno nella regione di Idlib, che lo ricordiamo rimane l'ultimo grande baluardo e l'ultima tappa per la riconquista della Siria da parte di Damasco, rimane la zona più nevralgica. Allora, ci sono un po' di messaggi al 349-238-6666, c'è già qualcuno, ve lo anticipo, che stigmatizza quella che è stata la crescita nelle spese militari. Cercheremo di avere un atteggiamento assolutamente laico nell'affrontare questo tema, che è importante e lo è tanto più quanto ci siamo ritrovati noi tutti cittadini del mondo a dover combattere una pandemia. Per, come dire, dare concretezza a quello che è un ragionamento che speriamo sia il più oggettivo possibile, partiamo dai numeri e andiamo a sentire in estrema sintesi quello che è il nuovo rapporto elaborato da SIPRI. Secondo il rapporto pubblicato dal SIPRI, l'Istituto Internazionale di Ricerca sulla Pace di Stoccolma, nel 2019 la spesa militare mondiale ha registrato l'incremento in assoluto più alto dalla crisi del 2008. Le spese militari totali dello scorso anno sono state pari a 1.917 miliardi di dollari, con un incremento del 3,6% rispetto al 2018. Si tratta della variazione annua più significativa dal 2010. Al primo posto della classifica troviamo gli Stati Uniti, con una spesa militare pari a 732 miliardi di dollari e un incremento del 5,3% rispetto all'anno precedente. Nonostante il disimpegno in diversi teatri bellici, la recente crescita della spesa in armamenti è da attribuire alla percezione di un ritorno su scala mondiale della competizione tra grandi potenze. La Cina mantiene saldamente il secondo gradino del podio, con una spesa pari a 261 miliardi di dollari e un incremento del 5,1%. Segue a ruota l'India, che registra un aumento pari al 6,8% su una spesa assoluta di 71 miliardi di dollari. Il fattore chiave che giustifica un tale incremento è rappresentato dalla rivalità tra Delhi e i vicini Pakistan e Cina. La Russia ha aumentato la propria spesa militare del 4,5%, raggiungendo i 65 miliardi di dollari. Con un investimento in armamenti pari al 3,9% del proprio PIL, Mosca risulta essere la più spendacciona del vecchio continente. L'Arabia Saudita si piazza al quinto posto, dominando il Medio Oriente. I dati relativi a Riyadh e ad altre nazioni della regione sono però solo stime dell'istituto, data l'opacità generale che caratterizza questo tipo di informazioni. I primi cinque paesi della classifica rappresentano complessivamente il 62% della spesa globale in armamenti. In ambito europeo, invece, rimangono stabili Francia e Regno Unito. Tra le due però si inserisce prepotentemente la Germania, che ha aumentato il budget in armamenti del 10%. L'incremento nella spesa di Berlino è parzialmente spiegabile dalla crescente minaccia rappresentata dalla Russia, percezione condivisa tra i diversi membri della NATO. Questo il rapporto che arriva dallo Stockholm International Peace Research Institute, il think tank più autorevole che analizza quella che è la corsa agli armamenti, le spese, senza utilizzare aggettivi più di tanto, dei vari paesi per ciò che riguarda le armi, i sistemi missilistici, i sistemi di radar, insomma le capacità di difesa. Torno brevemente su quella che è il dossier Donald Trump, perché alcuni ascoltatori su Facebook mi attaccano. Dite esattamente cosa ha detto Trump, comunicate tutto il ragionamento, non estrapolate una frase solo per far passare il messaggio che voi volete far passare. Solo un demente da quel discorso avrebbe capito di bere o iniettarsi disinfettanti. Gentile ascoltatore, purtroppo è un fatto di cronaca il fatto che molti centri veleni sono stati subissati di chiamate, ed è un fatto di cronaca che i produttori di disinfettanti si siano sentiti in dovere di esplicitare il fatto che quella strada non andava seguita. In tutta onestà, nelle scorse puntate di Nessun Luogo Lontano abbiamo fatto sentire e tradotte alcuni passaggi del discorso di Donald Trump. Io mi auguro, prima che lei scriva queste accuse, che abbia ascoltato il discorso e abbia visto anche la mimica e come si sia rapportato Donald Trump rispetto ai presenti assolutamente esterefatti. Qui non è questione di essere anti-Trump o no, però io mi chiedo se il presidente di una grande potenza mondiale possa avere la leggerezza, anche in una conferenza stampa che è così importante, quotidiana, di comunicazione, una pandemia che fa migliaia di morti, di suggerire ai medici quale potrebbe essere la strada da seguire. Detto ciò, non è una mia cura, non è una mia preoccupazione, però questo programma che cerca di analizzare la grande politica internazionale deve sottolineare quelle che sono delle cadute, non soltanto di stile, ben inteso, qua è contenuto puro, e ne sia a riprova il fatto che appunto i suoi collaboratori gli hanno detto: presidente, lei è meglio che non si presenti ai briefing. Io la trovo, dal punto di vista politico, di una gravità inaudita. Un altro ascoltatore fa eco e spiega, sempre sulla pagina Facebook, la diretta Radio 24, non posso verificarla, comunque il New York City Poison Control Center sostiene di aver ricevuto 30 chiamate nelle 18 ore successive all'osservazione del presidente statunitense. E poi un ascoltatore che ci segue fedelmente proprio dagli Stati Uniti, anche questa non la posso verificare e quindi mi perdonerete, qualcuno in Arizona è morto ingerendo disinfettanti a base di cloro. Questo è quello che sarebbe accaduto in alcuni episodi statunitensi. Qualcun altro rincara la dose e mi dice: devo parlare male di Kim, dittatore comunista, non di The Donald, presidente della patria e della libertà. E chiude con una offesa non troppo edulcorata. Gentile ascoltatore, noi abbiamo sempre sottolineato come il regime dittatoriale di Kim Jong-un sia uno dei regimi più oscuri e meno trasparenti al mondo, quindi francamente non ho capito perché non dobbiamo sottolineare quelle che sono state delle cadute totali di stile e di contenuto da parte di un presidente che ambisce a farsi eleggere nel 2020. Questi sono i fatti agli elettori, evidentemente statunitensi, poi la scelta di fare quello che vorranno. Torniamo al tema di quest'oggi. Il tema di quest'oggi è un tema che ha a che fare con le spese per gli armamenti, le spese che vengono effettuate dai vari stati nel mondo per corroborare le proprie capacità difensive e non solo. Dalla fotografia del rapporto ISPI, perdonatemi SIPRI, avete chiaramente intuito come il nuovo braccio di ferro tra le grandi superpotenze e la paura della Russia abbia alimentato la corsa alle spese di alcuni dei paesi. Vi faccio sentire la voce di Diego Lopez da Silva, che è un ricercatore di SIPRI, che ci va a spiegare come sia stato possibile che dal 2008 a quest'oggi, il 2019, che è l'ultima ricerca disponibile, abbia registrato un così alto aumento. Sentite il ricercatore. The growth in military spending in 2019 was mainly led by the United States and China. L'aumento della spesa militare nel 2019 è stato guidato principalmente dall'aumento delle spese militari di Stati Uniti e Cina. Tutti e due i paesi, normalmente, costituiscono oltre la metà della spesa militare mondiale e la loro spesa combinata ammonta a 1.000 miliardi di dollari. Per questa ragione, qualsiasi cambiamento nella spesa militare di Stati Uniti e Cina, ovviamente, influisce sulla tendenza globale delle spese militari. Nel 2019 gli Stati Uniti hanno aumentato la loro spesa del 5,3%. Si tratta del secondo anno di aumenti, che segue a 7 anni di cali continui, nel periodo tra il 2010 e il 2017, cali continui che in totale ammontavano a una diminuzione del 22%. L'aumento della spesa degli ultimi 2 anni negli Stati Uniti, mi riferisco al periodo 2017-2019, può essere attribuito a un aumento nei costi del personale e all'incremento della militarizzazione delle scorte convenzionali di armi. Per quanto riguarda la Cina, si registra un aumento del 5,1% rispetto al 2018. E se confrontiamo con soli 10 anni fa, con il 2010, abbiamo un aumento dell'85%. Quindi una crescita molto forte nell'arco di un solo decennio. La spesa militare cinese ha registrato un aumento continuo negli ultimi 25 anni. E infine, altri grandi acquirenti di prodotti militari, come India, Russia e Arabia Saudita, hanno aumentato gli acquisti, contribuendo, seppure in misura minore, a un incremento della spesa militare totale. Russia e Saudi Arabia have also contributed to, albeit to a lesser extent, to changes in the world total military spending. I numeri sono importanti, i numeri sono pesanti, 1.917 miliardi di dollari spesi nel 2019. Questo è il primo numero che ci arriva dal Stockholm International Peace Research Institute, ma i numeri non servono a niente se non si sanno leggerli. Nelle prime parole di Diego Lopez da Silva, ricercatore di SIPRI, abbiamo iniziato a mettere ai raggi X quelli che sono i numeri per capire quali sono le tendenze e le dinamiche, e non è detto, come suggerisce un ascoltatore, che gli scenari siano quelli più nefasti. Lo stesso ascoltatore, appunto Saverio, dice: stando quello che ha ascoltato dal vostro servizio iniziale è che le peggiori aspettative si stanno svelando. Guerra totale si chiede, forse non è esattamente così, gentile ascoltatore, andremo meglio nelle pieghe di quello che vuol dire per uno Stato incentivare la spesa militare. Un po' di messaggi da parte di voi ascoltatori. Qualcuno stigmatizza, dice che tristezza ascoltare certi commenti da parte di taluni ascoltatori, ma non voglio tornare sulla polemica bravo Trump o io sono contro Trump. Registriamo, come hanno fatto tutti i media internazionali, quella che è stata totalmente una gaffe dal punto di vista politico, e probabilmente i sondaggi molto presto ne terranno conto. Ma ripeto, questa non è una puntata su Donald Trump. Qualcuno mi dice che non abbiamo riportato correttamente le frasi di Donald Trump. Purtroppo è così, le abbiamo riportate correttamente. Ha detto quello, il video è facilmente ritrovabile. Lui chiedeva alla sua speaker: i medici non hanno per caso esplorato la possibilità di usare disinfettante? È molto potente, perché non lo facciamo? Beh, secondo me è un'idea molto convincente, proviamo a farla. Questo è quello che ha detto. Ma detto ciò, davvero non voglio fare una puntata su Donald Trump. La puntata di quest'oggi cerca di capire perché si è registrato un picco delle spese militari, chi lo ha fatto e soprattutto a quali scenari ci può portare. Torniamo alla voce di Lopez da Silva, che ha citato tra i paesi che stanno investendo più in armi Cina e in India, tanto che tanto al punto che per la prima volta nel report di SIPRI i primi tre paesi al mondo, quindi sul podio delle principali investitori in spese di difesa, ci sono due nazioni asiatiche. Che cosa significa? Maggiore volatilità nel quadrante? Oppure c'è un aumento di spese militari anche per ragioni interne? Sentite. Yes, this is the first time that two Asian countries are on the top three. Sì, è la prima volta che nella classifica dei paesi con la maggiore spesa militare si registrano due nazioni asiatiche, ma la Cina e l'India stanno aumentando la loro spesa militare già da un bel po' di tempo. Come dicevamo, negli ultimi 25 anni la Cina ha costantemente aumentato il budget militare in parallelo con la sua continua crescita economica. E l'India ha registrato una tendenza simile. Gli aumenti di entrambi questi paesi sono senza dubbio legati alle crescenti aspirazioni di Cina e India sulla scena globale. Ma se a questo corrisponde anche un aumento per ragioni di politica interna, è qualcosa che va oltre l'oggetto di indagine di SIPRI. Noi raccogliamo dati e cerchiamo di sottolineare le tendenze in atto, ma non discutiamo qual è l'impiego di questi investimenti. What are the uses of this figures of this investments? E così, con la voce di Diego Lopez da Silva, ricercatore di SIPRI, entriamo nelle pieghe, cerchiamo di capire meglio quale realtà si nasconda dietro ai numeri a prima vista inquietanti, importanti. La notizia c'è tutta, gentili ascoltatrici e ascoltatori: dal 2008 è il record di spese militari nel mondo, alcuni paesi sono quelli che tirano il treno, per così dire, e ci sono un po' di motivi che stiamo analizzando in questa puntata di Nessun Luogo è Lontano. Poi c'è stata l'irruzione del Covid-19, la pandemia. Si possono fare delle proiezioni sul 2020 e come la gestione di questa emergenza globale andrà a inficiare gli investimenti in difesa? Sentite ancora Diego Lopez da Silva. The pandemic still ongoing, so it's very uncertain what will happen. Beh, la pandemia sta proseguendo e sicuramente quello che sta avvenendo avrà un impatto sull'anno in corso e anche sugli anni a venire. Se ci basiamo sull'ultimo precedente vagamente simile, mi riferisco alla crisi globale scoppiata nel 2008, all'epoca abbiamo registrato forti tagli nella spesa militare. Quest'anno si preannunciavano già alcuni tagli, decisi prima dello scoppio dell'epidemia. Penso a una forte riduzione della Corea del Sud, ma questa non è una tendenza che sarà assunta da tutte le nazioni. Ci aspettiamo che la maggior parte dei paesi taglierà la spesa militare in seguito alla recessione globale causata dal coronavirus. Stiamo già notando questo andamento in questo momento preciso, ma di sicuro non avverrà in tutto il mondo. Di sicuro alcune nazioni, a causa di preoccupazioni per la sicurezza, cercheranno comunque di mantenere la spesa militare nei parametri già fissati. Insomma, a causa del Covid-19 e della crisi sanitaria in corso, stiamo sicuramente registrando un dibattito sull'allocazione delle risorse. Bisogna davvero spendere di più per l'esercito quando bisogna spendere in sanità? Ci aspettiamo che questo dibattito diventerà sempre più centrale nei prossimi mesi. Ma in questo preciso momento è ancora troppo difficile fare delle previsioni. E questo è proprio il punto focale del ragionamento di quest'oggi, ascoltatrici e ascoltatori, con la pandemia, che è il vero nemico globale. Che senso ha continuare a spendere in difesa? Ed è davvero una domanda, ci mettiamo davvero il punto di domanda, non è retorico. Aspetto i vostri commenti anche su questo. 349-238-6666, la borsa, poi la seconda pagina di Nessun Luogo Lontano. Nessun luogo è lontano. Buona giornata e ben ritrovati, ascoltatrici e ascoltatori. Apriamo la seconda pagina di Nessun Luogo Lontano per andare a indagare, al di là dei numeri, sulle motivazioni, sulle ragioni che stanno dietro a questo picco di spese per la difesa registrato dal SIPRI, Stockholm International Peace Research Institute. Qualcuno di voi su Twitter, un ascoltatore scrive: credo che il picco del mercato di armi sia coerente con il clima politico internazionale di crescente nazionalismo, sovranismo, diffidenza, sicurezza. Interessante anche un altro tweet, ne abbiamo parlato spesso di questo tema, delle spese militari: sono escluse quelle per la cyber war in atto, combattutissima, si fa la conta sugli armamenti convenzionali dimenticando che le cyber weapons, quindi le armi che servono ai cyber attacchi, software per esempio, ormai sono gli armamenti convenzionali più usati. Così un ascoltatore che sposta un po' la prospettiva. Però nel rapporto di SIPRI si parla di attori statali che invece spendono in quelli che sono armamenti che noi comunemente conosciamo. 349-238-6666. Musumeci, ma cosa serve fare un'intera puntata per indagare? Accusa subito la Russia. In questo anche lei è bravo e finiamo questa falsità. E così nel giro di 30 secondi mi sono beccato dell'anti-Trump e dell'anti-Putin. Andiamo avanti, ma lo facciamo seriamente col prossimo ospite, che è il generale Vincenzo Camporini, consigliere scientifico Istituto Affari Internazionali, ex capo di Stato Maggiore della Difesa. Generale, buongiorno, ben ritrovato a Nessun Luogo Lontano. Buongiorno a chi ci ascolta. Allora, generale, un primo commento su questi numeri. A distanza di oltre 10 anni c'è stato un picco nella spesa agli armamenti. Qual è il primo commento che ne scaturisce, secondo lei? Una precisazione, perché il rapporto SIPRI, che è stato pubblicato in queste ore, non parla di spese per armamenti, ma parla di spese militari. Quindi comprende sia gli armamenti che le spese di... per gli stipendi, per l'addestramento e quant'altro, il che non toglie che ci sia chiaramente un picco nella spesa per l'acquisto di armi, per la produzione di armi. Sì. Il documento del SIPRI dà delle indicazioni molto chiare, molto diciamo condivisibili per quanto riguarda il trend. Sarei un pochino più prudente nella considerazione dei numeri che vengono scritti, perché quando uno conosce le cose, io conosco il bilancio della difesa italiano e francamente non riesco a capire come SIPRI sia arrivato a scrivere certe cifre che non sono giuste, sono in eccesso, significativamente in eccesso rispetto a quanto spende la difesa italiana. Comunque possiamo approfondire anche questo. Sì. Allora, con il generale Vincenzo Camporini stiamo cercando di analizzare il perché si sia arrivati nel giro di 10 anni a delle spese maggiori, appunto, di 10 anni fa. Prima un approccio di metodo, già che il generale è già entrato nel merito anche del rapporto di SIPRI. Poniamo che un miliardo di dollari venga speso dalla Cina nell'aumento della capacità difensiva e lo stesso miliardo sia speso dagli Stati Uniti. Sono comparabili le due cifre a livello anche di efficacia? Immagino che non compreranno gli stessi tipi di armi e non faranno fare lo stesso addestramento agli militari e non avranno le stesse scorte di cibo, per esempio. No, assolutamente, infatti questa è una delle debolezze dei rapporti del SIPRI. Io l'ho già detto più volte anche nel passato, perché confrontare la cifra bruta dice abbastanza poco, dice un trend appunto, ma non dice esattamente l'acquisto di capacità che viene effettuato ogni anno spendendo quello che serve, perché come giustamente ha osservato lei, in realtà un dollaro speso in Cina per l'armamento e per l'addestramento vale molto di più del dollaro americano. Il soldato americano ha un costo di gestione molto più elevato, quindi con la stessa quantità di soldi si comprano molti più soldati in Cina di quanti se ne comprano negli Stati Uniti. Certo. E lo stesso vale per i sistemi d'arma, certo, che hanno dei costi che sono una frazione a parità o quasi di prestazione rispetto a quello che costa in Occidente. Sì. La voce che state ascoltando è quella del generale Vincenzo Camporini, consigliere scientifico dell'Istituto Affari Internazionali, già capo di Stato Maggiore della Difesa. Da questi microfoni abbiamo tante volte sottolineato, e spesse volte anche con lei, generale Camporini, come evidentemente la difesa e l'esercito e le forze armate in generale siano uno strumento anche di politica estera che in alcuni quadranti ha rivelato tutta la sua efficacia. L'aumento delle spese può essere inserito anche in quest'ottica, cioè in un'ottica di maggiori frizioni a livello internazionale, per cui le grandi potenze comunque continuano a investire, perché avere forze difensive o avere una forza di deterrenza è comunque uno dei tanti strumenti che gli stati mettono in campo. Non c'è il minimo dubbio al riguardo. È ovvio, è una constatazione quotidiana, che il livello di instabilità nelle relazioni internazionali negli ultimi 20 anni è molto aumentato. Diciamo che noi venivamo alla fine della guerra fredda da una situazione che sembrava tutto sommato consolidata, qualcuno parlava di fine della storia, e invece la storia non è finita, e l'instabilità aumenta, il che induce gli attori a acquistare gli strumenti che servono. Sì. Tra questi strumenti c'è anche lo strumento militare. Sì. Quindi non dobbiamo stupirci se questo sta accadendo. Sì. Generale Camporini, l'ultimo punto che volevo toccare con lei riguarda la ripartizione per partite delle varie spese militari. Ci sono dei settori sui quali gli eserciti, le forze armate per meglio dire, di tutto il mondo stanno concentrando i loro investimenti, sistemi di difesa, sistemi missilistici, droni? Cioè c'è un settore in questa industria, in questo campo, che sta spiccando perché sta catalizzando l'interesse dei vari governi? Ma dipende anche dal tipo di potenza che uno vuole avere. È chiaro che potenze come la Cina, come gli Stati Uniti si stanno concentrando su armi del tipo missili ipersonici. Ci sono altre aree, altri paesi che hanno diversi tipi di problematiche, e allora fanno molto più comodo i droni, come stiamo vedendo adesso in Libia, dove c'è una corsa a chi ne ha di più e di migliori, acquistati un po' sul mercato, e purtroppo è un mercato estremamente vivace, diciamo. Sì. Allora, dalla voce del generale Camporini alla vostra voce, che arriva tramite SMS WhatsApp al 349-238-6666, Marcello scrive: la pandemia è la risposta giusta per evitare guerre vere e proprie. Il risultato di una guerra vera è distruzione, segue la ricostruzione. Dunque questa pandemia è benvenuta, nel senso che ha provocato distruzione relativa, alcune centinaia di migliaia di morti, ma sicuramente propensione a una ricostruzione migliore. Così Marcello, che in realtà introduce in maniera forse laterale quello che è un tema che abbiamo toccato anche nelle scorse puntate, generale Camporini, come anche stigmatizzare gli aumenti delle spese della difesa non sia corretto, anche in termini di pandemia, perché come abbiamo visto anche eserciti di tutto il mondo sono ormai coinvolti in funzioni di protezione civile a tutti gli effetti. Ecco, ne abbiamo già parlato proprio da questi microfoni. Lei, con questa pandemia che sta durando mesi, vede anche un'evoluzione nelle funzioni, nei ruoli degli eserciti? Ma più che un'evoluzione, è un'evidenziazione di qualche cosa che già c'era prima, perché l'intervento delle forze armate in caso di calamità naturali di vario tipo è una regola, l'abbiamo vissuto in Italia con alluvioni, terremoti e quant'altro. È chiaro che dobbiamo anche metterci in un'ottica che è stata benissimo illustrata da Gates quando in quel clip di 4 anni fa, in quel discorso di 4 anni fa che è stato recentemente rispolverato, parlava appunto del rischio di una pandemia e del fatto che per combattere un nemico di questo tipo serve un'organizzazione di tipo militare, già pronta, già predisposta, che purtroppo abbiamo visto non essere disponibile, il che sta creando qualche serio problema. Sì, e quindi ben venga anche un approccio militare, lo diciamo evidentemente in senso lato, che vuol dire ferrea disciplina, organizzazione, avere metodo e capacità di reazione immediata, che è quello che serve evidentemente nel caso di un nemico comune così subdolo come il Covid-19. Grazie mille al generale Vincenzo Camporini, consigliere scientifico di IAI, già capo di Stato Maggiore. Generale, buona giornata e buon lavoro. Grazie mille a voi. E io, nonostante stia cercando di porre sul piatto argomenti pesanti, molti ascoltatori al 349-238-6666 continuano a rincarare la dose dividendosi, lo dico sempre, a rischio di essere tacciato, oltre che anti-putiniano, anti-trampiano e cerchiobottista, si dividono abbastanza equamente tra chi stigmatizza l'uscita di Donald Trump e chi invece sostiene, come in alcuni post sulla pagina Facebook, scrive testualmente un'ascoltatrice, piantarla di prendersela con Trump, ce l'avessimo noi. Tra pochissimo vi porterò in quello che è un teatro in cui la dinamica che vi abbiamo descritto, l'aumento delle spese militari del SIPRI, trova un risvolto assolutamente inatteso. Vi parlerò anche di un mistero che ha a che fare con ISIS e con Al-Qaeda. Insomma, ancora una volta, il Sahel da troppi considerato un luogo lontano, ma la missione di questo programma è proprio avvicinare anche luoghi apparentemente lontani. Adesso andiamo a sentire come va la viabilità e poi l'ultima pagina di Nessun Luogo Lontano. Promo 24. Eolo porta internet a banda ultralarga anche alle imprese della provincia italiana. Eolo Azienda è la soluzione di connettività progettata su misura per la tua impresa, anche se si trova nei nostri comuni più piccoli. Con le offerte di Eolo Azienda hai il servizio attivo in soli 5 giorni, puoi navigare fino a 1 giga e ricevi sempre un servizio di assistenza immediata. Un team Eolo dedicato alla tua azienda, con una risposta telefonica garantita in 20 secondi. Per scoprire le offerte Eolo Azienda, chiama il numero verde 800 939 939 oppure visita il sito azienda.eolo.it. Nessun luogo è lontano. E così, dopo un violentissimo, almeno tanto quanto le note che state ascoltando, brainstorming con Danilo Di Trani, che ha in comune con me la passione per le certe sonorità un po' dure, cosa abbiamo fatto scaturire dal cilindro di Nessun Luogo Lontano? Una band metal togolese, Arkan, giusto per dare un po' di atmosfera, anche localizzare geograficamente più o meno, stiamo sbagliando di qualche migliaia di chilometri alla faccia dell'approssimazione. Non c'era una band metal maliana, non l'abbiamo trovata. Tra pochissimo, col prossimo ospite, cercheremo di analizzare quello che è un quadrante tra i più complessi, non soltanto in Africa, e dove la corsa agli armamenti e anche le spese militari in qualche modo hanno una doppia vita, o quantomeno hanno una vita di riflesso, perché se i governi più forti si armano per rendersi più forti, poi chi lotta contro quei governi, le milizie jihadiste su tutti, in qualche modo riescono anche a beneficiare di quelle che sono le spese e gli investimenti governativi. 349-238-6666, Maria da Venezia, parliamo di armi convenzionali, mitragliatori, mine, bombe, tutto fa business, ma senza molte armi, molte guerre dovrebbero rallentare o no? Certo, Maria, sulla carta è tutto verissimo, nel mondo reale, a rischio di suonare cinici, ma come giustamente diceva il generale Camporini e come noi stessi sosteniamo da tempo, la difesa, le forze armate sono una leva di politica estera, la deterrenza tutt'oggi funziona in alcuni quadranti, quindi sarebbe forse paradisiaco e elegiaco un mondo senza armi? Io lo vedo difficilmente attuabile, lungi da me qua fare una elegia a mia volta di quella che è l'industria delle armi, assolutamente, però non c'è dubbio che un esercito efficiente, ben preparato, ben pagato ci dia una mano anche in casi di Covid-19, per esempio. Buongiorno e ben ritrovato a Nessun Luogo Lontano a Luca Raineri, ricercatore alla Scuola Sant'Anna di Pisa, esperto di Sahel. Raineri, buongiorno, ben ritrovato. Buongiorno, buongiorno a voi. Allora, stavo cercando, forse arrampicandomi un po' sugli specchi, nel trovare una metafora che sostanzialmente spiegasse come le realtà jihadiste del Sahel beneficiano indirettamente di quelli che sono gli sforzi governativi, burkinabè su tutti, visto che ne parliamo spesso, nel dotarsi di migliori veicoli militari, migliori armi, addestrare meglio i loro uomini, come se quelle armi e quegli investimenti vivessero una seconda vita. Che cosa accade precisamente, Luca Raineri? Sì, in realtà la metafora la si può chiedere direttamente ai leader jihadisti, che in più di un'occasione nei loro commenti che circolano sui social media hanno ironicamente ringraziato l'Occidente per i rifornimenti militari che vengono inviati ai governi locali, nazionali di molti paesi africani che sono partner con cui si cercano di studiare insieme dei piani di difesa contro la minaccia jihadista. Ma spesso queste mani finiscono invece per essere dirottate nelle mani dei jihadisti, i quali attaccano facilmente i posti di frontiera più avanzati, i posti di controllo militari detenuti dagli eserciti nazionali, per impossessarsi proprio di questi armamenti spesso appena arrivati, appena consegnati. In alcuni casi, nei casi deteriori, abbiamo anche informazioni dettagliate del fatto che parte di questi armamenti può anche finire per essere non catturata in azioni militari, ma addirittura venduta tramite reti di corruttela che finiscono per alimentare proprio gli avversari a cui erano destinate. Allora, dalle parole di Luca Raineri, ma non per autocitarmi, mi vengono in mente immagini, e dico immagini perché all'epoca, tra le altre cose, scattavo fotografie Repubblica Democratica del Congo, Repubblica Centrafricana, in cui milizie e ribelli indossavano le uniformi dei governativi, sparavano con gli stessi Kalashnikov sottratti ai governativi, addirittura giravano con jeep e mezzi blindati con la scritta rispettivamente delle forze della Repubblica Centrafricana e delle forze Fardesse della Repubblica del Congo. Una vera e propria sostituzione, esito quegli armamenti che ebbi l'occasione di vedere, appunto, di razzie, di attacchi ad avamposti, come giustamente sottolineava Luca Raineri. Facciamo una piccola pausa, Raineri, e torniamo per un momento a quel mistero che abbiamo provato a raccontare la settimana scorsa, un mistero della presunta morte di Abdelhakim, leader jihadista dato per morto, appunto, scontri violentissimi nel Mali centrali, e partiamo con una voce che ascoltiamo insieme. Tutto perdere, perdere alime one e ami. La voce che state ascoltando è quella di Kufa, che è un altro leader jihadista. Ai più forse questi nomi non diranno moltissimo. Luca Raineri, ci aiuti a capire che cosa stiamo ascoltando e perché è importante questo braccio di ferro nel Mali centrale. Sì, la voce che abbiamo sentito è quella di Amadou Kufa, che è uno dei leader jihadisti più importanti di tutto il Sahel, ricercatissimo, che comanda una katiba, una falange armata di jihadisti che imperversa nel centro del Mali, che è una regione grande come mezza Italia, da cui ha completamente espulso le truppe governative che non sono in grado di mantenere il controllo di quest'area, anche fra l'altro avvalendosi di tattiche astute che fanno un po' riferimento a quello che dicevamo prima, cioè utilizzando armi, divise dell'esercito maliano in modo da poter condurre degli attacchi a sorpresa e non essere identificati fino all'ultimissimo momento. Ora, nelle ultime settimane abbiamo assistito a un esacerbarsi delle tensioni proprio in questa zona, dovuta a una crescente competizione fra il gruppo di Kufa, che è un gruppo legato alla galassia di Al-Qaeda, e il gruppo relativo allo Stato Islamico, che è sempre più presente e radicato nella regione. In questo contesto ci sono stati degli scontri molto violenti che hanno causato decine di vittime. Fra queste vittime si sospetta che ci sia anche il secondo in comando del gruppo dello Stato Islamico nel Sahara, appunto Abdelhakim Sahrawi. Il nome lo dice, è un Sahrawi, viene dal nucleo del Polisario, di questi giovani leve del Polisario che hanno rinnegato il credo socialista in cui era nato il Polisario e che invece si sono convertiti al jihadismo. la morte di Abdelhakim Sarawi non è ancora confermata. In questi casi bisogna sempre essere molto cauti. Molti di questi leader sono stati dati per morti decine di volte. Sì, mi viene in mente Mokhtar Belmokhtar, mi viene in mente Abubakar Shekau, il leader di Boko Haram. Ogni volta che venivano dati per defunti spuntava un messaggio audio che normalmente tuonava contro l'Occidente o il governo africano di turno. Luca Raineri, lei ha sottolineato quella che è la competizione fra due grandi brand jihadisti, da un lato lo Stato Islamico, dall'altro Al-Qaeda. Chi è che sta vincendo nella forza di attrattività tra i due brand? Un Al-Qaeda che è stato offuscato negli ultimi anni da ISIS, soprattutto quando il califfato esisteva in Medio Oriente, ma che sembra aver recuperato in qualche modo una spinta propulsiva. Sì, è difficile dire chi stia vincendo. Al-Qaeda nel Sahel è una costellazione di diversi gruppi che stanno riuscendo a travalicare i confini etnici. Questa è una delle grandi forze, un messaggio unificante dal punto di vista etnico contro il grande nemico del grande Satana rappresentato dai francesi e dai loro alleati considerati delle marionette locali. D'altra parte lo Stato Islamico sta effettivamente guadagnando terreno grazie a un messaggio, se vogliamo, ancora più radicale, ancora più violento, ma che fa leva su delle istanze sociali di ridistribuzione della terra. In questo contesto particolarmente acceso e particolarmente difficile si inseriscono poi le azioni della diplomazia internazionale, che da poco hanno dato seguito a una delle raccomandazioni che i maliani hanno più volte rivolto alla comunità internazionale, ovvero quello di aprire un canale di dialogo, di comunicazione e, se possibile, di mediazione proprio con il network di Amadou Koufa, quindi del gruppo legato ad Al-Qaeda. Queste raccomandazioni in realtà paradossalmente hanno ancora di più infiammato il conflitto proprio nelle ultime settimane, nella misura in cui hanno prestato un gioco facile agli esponenti di ISIS, che naturalmente ora possono additare i gruppi legati ad Al-Qaeda come dei lacchè dell'Occidente pronti a scendere a patti con il grande Satana. E qua si vede, si evince dalle parole di Luca Raineri quanto sia complesso anche il posizionamento da parte dei gruppi jihadisti, perché lo ricorderete, se non erro, mi corregga se sbaglio Luca Raineri, già da febbraio il presidente maliano, non senegalese, Boubacar Keita aveva annunciato l'apertura di un dialogo proprio con Koufa fra gli altri. La domanda è sempre quella: col diavolo si parla? C'è qualcuno che dice si parla con tutti, ma a quel punto lo legittimi come interlocutore? L'abbiamo visto, fatte salve le debite proporzioni naturalmente, con gli accordi di Doha, i talebani che parlano con gli Stati Uniti vengono elevati a rango politico a tutti gli effetti, con quello che vi stiamo raccontando in questi mesi del caos in Afghanistan. L'Ucraina, l'ultima domanda, forse un po' tecnica, ma le chiedo una risposta telegrafica: riescono questi gruppi jihadisti con piccoli attacchi e con piccolo mercanteggio, col contrabbando, a avere un numero, un tipo di armi così sufficiente da mettere in discussione anche forze governative? Certo, non fulgi di esempi di tenacia e di combattività e di preparazione come quelle burkinabè, nonostante per esempio l'appoggio francese. Cioè basta andare a fare dei raid, rubare alcuni mezzi, dei Kalashnikov eccetera. Come la mettiamo con l'addestramento, con la disciplina, con la preparazione? Sì, in realtà la domanda contiene in nuce già la risposta. Gli eserciti locali, è pur vero che hanno investito quote crescenti del PIL nazionale nell'ambito della difesa, fino a raggiungere delle cifre che in percentuale sono straordinariamente più elevate di quelle di qualunque paese europeo, ma che comunque in valore assoluto rappresentano delle risorse assolutamente esigue. Sono eserciti che non hanno un'aviazione, che hanno risorse molto deboli, dove prima di questi investimenti di ultima generazione, i soldati andavano a combattere a piedi scalzi e con fucili spesso privi di pallottole. Quindi in realtà non è così difficile avere la meglio, anche perché a questo si aggiungano due punti su cui vorrei brevissimamente soffermarmi per chiudere, che sono: primo, i numerosi abusi di cui questi stessi eserciti sono tacciati, vuoi per paura, vuoi per mancanza di preparazione, ma sono ormai sempre più numerosi e quasi sì. settimanali sì. i report che descrivono i gravissimi abusi e massacri e violazioni dei diritti umani di cui questi eserciti si sono resi responsabili nei confronti delle stesse popolazioni, che finiscono a volta per vedere i jihadisti come dei liberatori anziché certo. come degli oppressori. Certo. E la seconda considerazione è una mancanza di motivazione. Purtroppo molti degli aiuti e degli incrementi, diciamo, del budget della difesa non arrivano ai destinatari ambiti sul campo, ma si fermano nelle capitali dove vengono spartiti in filoni di corruttele e consorterie politiche. E certo, e anche ci sono stati quell'aspetto... numerosi casi in questo senso proprio nel Sahel queste settimane. Certamente, ci torneremo sul punto. Grazie mille Luca Raineri, ricercatore Scuola Sant'Anna di Pisa, esperto di Grazie Sahel, per essere stato con noi. Abbiamo parlato di ferrea disciplina militare, giusto Peter? Gli ordini, e ringrazio tutta la squadra di Nessun Luogo Lontano, tutti voi che siete stati all'ascolto, l'appuntamento è per domani, ore 16, un saluto da Giampaolo Musumeci.